prima edizione. Le 6, 14 minuti e 20 secondi, di nuovo una buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e anche a quello che riportano i siti internet dei principali quotidiani internazionali, oggi particolarmente importanti, soprattutto, vi dicevamo già nel giornale radio, per quest'ipotesi di un intervento cinese nella crisi del debito italiana. Comunque sia, iniziamo da quelli italiani e dal Sole 24 Ore, che punta l'attenzione sui titoli di Stato sull'asta di ieri. Borse ancora giù, il BOT balza al 4,15%, come già vi dicevamo nel giornale radio. Firma un pezzo Maximilian Cellino nel quale fa notare: negli investimenti a breve il buono del tesoro batte tutti. In effetti il rendimento al momento è al 3,3% al netto del prelievo fiscale. Di taglio centrale, l'Europa che si rivolge all'Italia e dice: fate di più. Dal governo sia le dismissioni, parla il Sole 24 Ore di un incontro con gli investitori nazionali ed esteri per vendere immobili, concessionari e SPA locali. C'è anche un titolo sulla produzione industriale, e in alto, con un titolo abbastanza importante, l'incendio nel sito nucleare francese. Il Corriere della Sera ha un'apertura dedicata ai sei morti nella fabbrica di fuochi di artificio. L'inferno tra i fuochi d'artificio, sei morti nella fabbrica saltata, questo è il titolo. È l'apertura del quotidiano, nel senso che è più in alto sul quotidiano, ma a centropagina il titolo veramente forte è: l'Europa preme per altre misure, titoli e privatizzazioni, delegazione cinese a Roma. A centropagina il titolo dedicato alla vicenda milanese: così Milanese ha portato via soldi e documenti dalle cassette, pezzo a firma di Fiorenza Sarzanini, e sono le nuove carte dei PM sull'ex braccio destro di Tremonti. Questo dal Corriere della Sera. Il commento di prima pagina firma di Massimo Mucchetti: Europa, salari, politiche pubbliche, l'emergenza che non vediamo. La Repubblica: borsa e BTP sui mercati, torna la paura, questo è il titolo. Nuovo crollo delle banche, l'Europa all'Italia servirà una manovra aggiuntiva, così scrive Repubblica. A centropagina due foto messe di fatto in parallelo, con due titoli: Francia, sito nucleare in fiamme, le autorità, non ci sono radiazioni, e inferno nella fabbrica dei botti, un'esplosione uccide sei operai. Segnaliamo anche l'editoriale a firma del direttore Ezio Mauro questa mattina: Berlusconi sconfitto sulle 10 domande. Di taglio basso, la Cina, il tema della Cina, in questo caso non del fondo sovrano ma della censura, così la Cina imbavaglia la rete. Il Messaggero: strage nella fabbrica di fuochi, è questa l'apertura, sei morti tra le fiamme vicino a Frosinone, una bomba come in guerra. Questa frase, una bomba come in guerra, è tra virgolette, quindi riporta una testimonianza. E c'è addirittura un commento: vulcani senza regole, a firma di Alessandro Barbano. Si parla anche di economia, con la Grecia che affonda le borse, l'Europa che avverte l'Italia a rischio di una nuova manovra. E a centropagina il titolo forte invece è dedicato al nucleare. Avignone, paura nucleare, scoppio in un sito di stoccaggio. La Francia: nessuna fuga radioattiva. Quotidiano romano dedica anche un titolo alla Roma, De Rossi che difende Luis Enrique. La Stampa: pronti a nuove misure, questo è il titolo forte, però l'apertura è dedicata invece alla Francia, all'esplosione nell'impianto nucleare. E a centropagina la foto con la strage nella fabbrica di fuochi d'artificio, un titolo dedicato alla vendemmia. Di taglio basso, vendemmia tropicale, giù la produzione per il caldo, raccolta anticipata e in calo. Da ricordare anche in tema tutti i discorsi casta e via dicendo: retroscena, province risorte prima di morire, l'ente intermedio avrà un presidente, un parlamentino, a firma di Alessandro Barbera sulla Stampa. Questo per quanto riguarda i quotidiani italiani. Vediamo di dare un'occhiata, come si diceva, ai quotidiani esteri. Iniziando dai due che parlano di questo possibile intervento cinese per la questione del debito italiano, che sono il Wall Street Journal e il Financial Times. Che cosa riportano questi due quotidiani, in particolare il Financial Times? Racconta il Financial Times che Lu Jiwei, che è il presidente della China Investment Corp, un fondo sovrano cinese, quello che in genere si occupa degli investimenti nell'azionario, ha condotto una delegazione a Roma la scorsa settimana per colloqui con Giulio Tremonti e con i vertici della Cassa Depositi e Prestiti. Ricorda anche il Financial Times che nelle settimane scorse il Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, era stato in Cina proprio per parlare della questione del debito italiano. Quindi, in sostanza, questo è quello che riporta il Financial Times e che riporta anche il Wall Street Journal. Di questo si parla, dell'ipotesi di un intervento cinese, che diventa anche l'apertura, tra l'altro, del Financial Times Deutschland. Sono temi naturalmente che vengono toccati anche dai quotidiani internazionali, dai quotidiani americani in particolare. Il New York Times in realtà dedica la sua apertura online ancora all'economia, ma nella fattispecie ad altri due temi, quelli più puramente americani, ossia il nuovo dibattito questa notte a Tampa tra i repubblicani, con un nuovo scontro tra Romney e Perry. Si va naturalmente verso le primarie, questi due sono i candidati più forti, e ancora una volta il tema è quello della Social Security, ossia delle pensioni americane, un sistema che sta andando in squilibrio sul quale Perry, uno dei due candidati repubblicani, è molto critico, addirittura parlando di questo, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, come di uno schema Ponzi, ossia di fatto di una truffa, mentre invece Romney parla più di una riforma. Da segnalare sui quotidiani americani anche il molto spazio che viene dato naturalmente al fatto che Barack Obama ha trasmesso il suo piano per il lavoro, del quale vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ha trasmesso questo piano al Congresso e quindi iniziano ad emergere i dettagli di questo piano, al di là del discorso che Obama ha fatto al Congresso. Tra le altre cose, si prevede da subito un innalzamento delle tasse sui più ricchi, un fatto che ha creato immediatamente qualche mal di pancia tra i repubblicani, in particolare per i patrimoni a partire dai 200.000 dollari. E a questo si dedica naturalmente anche il Washington Post. Vi segnaliamo dal Wall Street Journal un'altra storia interessante di un'economia in crescita, che è quella turca, una sorta di racconto per cui si dice che, insomma, una certa stabilità finanziaria, il basso livello della lira turca stanno favorendo moltissimo il turismo e praticamente gli alberghi di Istanbul sono pieni. Per quanto riguarda i quotidiani britannici, possiamo dire che sostanzialmente le aperture sono ancora dedicate alle questioni europee, dedicate alle questioni europee e anche alle questioni inglesi. Ieri è stato annunciato dalla Gran Bretagna il piano per la riforma delle banche, un piano per la riforma delle banche che prevede, tra le altre cose, la separazione tra quelle che sono le attività più puramente finanziarie e le attività più puramente retail, che però entrerà in vigore nel 2019. Forti titoli sulla vittoria di Djokovic, della quale abbiamo parlato poco fa, contro Nadal, e quindi sul tennis. I giornali francesi, Le Figaro si concentra su una vicenda che sta decisamente scuotendo la Francia, è quella che riguarda le dichiarazioni dell'avvocato franco-libanese Robert Bourgi, il quale ha raccontato e sta raccontando che una serie di politici francesi hanno ricevuto del denaro da leader africani per finanziare le proprie campagne elettorali. Nella fattispecie il nuovo coinvolto dopo Jacques Chirac e Dominique de Villepin, e quindi siamo ai massimi livelli possibili in Francia, c'è anche, attenzione, Jean-Marie Le Pen. Le Monde invece apre naturalmente sulla crisi del debito e soprattutto sulle tensioni che ieri si sono scatenate sulle banche francesi, ma dedica ampio spazio naturalmente anche a questa vicenda. Allora, questo il quadro per quanto riguarda la stampa di oggi, in edicola e fuori edicola su internet. Adesso ci occupiamo del primo tema di giornata, naturalmente i mercati. Dalla nostra redazione Adriana Fracchia, buongiorno Adriana. Buongiorno, sì, facciamo un po' il punto della situazione. Ennesima giornata nera ieri dei mercati finanziari del vecchio continente sull'onda della crisi del debito sovrano e in particolare sulla scia dei timori per la Grecia. La settimana per le borse europee è cominciata davvero con un tonfo che ha mandato in fumo in una sola seduta 149 miliardi di euro. Piazza Affari ha registrato un meno 3,89% e l'effetto Grecia ha travolto in particolare i titoli delle banche francesi, infatti la peggiore in Europa risulta proprio Parigi, che ha chiuso a meno 4,03%. A Londra il FTSE 100 ha contenuto le perdite a fine giornata chiudendo a meno 1,63%, mentre Francoforte ha chiuso a meno 2,27%. La borsa di Madrid è scivolata al 3,41% al termine delle contrattazioni e a spingerla giù sempre le banche. A Wall Street l'indice Standard & Poor's ha chiuso invece in recupero dello 0,7% sulla voce di acquisti cinesi di bond UE, in particolare italiani. Il Nasdaq ha chiuso infine a più 1,1%. L'economia globale resterà debole fino a che la crisi dell'area euro non sarà risolta, ha detto il presidente americano Obama, sottolineando che gli Stati Uniti lavorano con le autorità europee per stabilizzare la situazione. E la Grecia, ha detto ancora Obama, è il problema più urgente in Europa, ma si stanno adottando misure per rallentare la crisi. Oggi apertura in rialzo per Tokyo a più 0,62% e in questi istanti segna più 0,69%. Buona poi all'asta di ieri la domanda di bot annuali, ma con un tasso in netto rialzo del rendimento al 4,15%, mentre lo spread tra BTP e Bund è arrivato a 385 punti. E oggi occhi puntati sull'asta di BTP a medio termine. Per quanto riguarda le valute, infine, l'euro quota in questi istanti 1,3685 sul dollaro. Ed è tutto, Simone. Grazie, grazie Adriana Fracchia per questi aggiornamenti e per questo ottimo riassunto della giornata. Prima edizione. Le 6:36 minuti e 17 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Ieri sera il presidente del CNT, il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, Mustafa Abdel Jalil, ha detto a Tripoli che nella nuova Libia del dopo Gheddafi l'Islam costituirà la principale fonte di diritto. E anche di questo che parleremo tra poco, ma prima di tutto Italia in controluce. Italia in controluce. Radio 24, Italia in controluce, la pillola inserita all'interno di questa fascia oraria in diretta, il programma di Radio 24 quotidiano, due edizioni, 6:30, 13:30, vi parla Daniele Biacchessi. Che fine ha fatto Futura Libertà, il partito di Gianfranco Fini? Ha certamente rappresentato un punto di rottura politica con il Popolo delle Libertà, in particolare con Silvio Berlusconi, ma è sembrato sopravvalutato forse dagli analisti politici. Come è strutturato Futura Libertà? Cosa farà dopo il raduno di Mirabello nel weekend? Quali saranno le alleanze? Barbara D'Amico ne ha parlato con militanti e con il parlamentare Benedetto Della Vedova. Futura Libertà innanzitutto c'è, ha una prospettiva. Le cose che ci hanno portato a rompere con il PDL, che noi denunciavamo sull'economia, sulla Lega, sulla moralità, diciamo che si sono confermate come l'elemento negativo dell'esperienza del PDL. Quindi no, lì ha avuto difficoltà, sono evidenti a tutti. Io credo noi possiamo guardare al futuro con la prospettiva di provare ad essere protagonisti della politica dei prossimi 10 anni? C'è un lavoro di organizzazione, stiamo parlando di un partito che non è strutturato, abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative e soprattutto abbiamo fatto i primi congressi proprio per strutturarci come deve essere in effetti un partito. Qualche problema c'è stato soprattutto nell'ultima manifestazione che abbiamo fatto a Milano, si sentiva da parte della base la necessità che il presidente Gianfranco Fini decidesse di abbandonare la carica di presidente della Camera, questo non è accaduto, quindi speriamo di poter riprendere la situazione sotto mano e magari trovare quell'entusiasmo che inizialmente alla nascita del Futuro e Libertà c'è stato. Mi ha fatto una scelta difficile, però per dimostrare che la politica c'è ancora qualcuno che la vuole fare seriamente. Defezioni, penso che quello che abbiamo giunto, che sono state defezioni di vertice più che di base, no? Le abbiamo già dato, penso, a questo punto di vista, anche perché ormai nel PDL non posso più garantire niente, no? Posti sottosegretari sono finiti, quindi chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Ritengo che invece sia stata una buona risposta da parte della base. La prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi 13:30, Radio 24. Sono le 6:39 minuti, 37 secondi, di nuovo buona giornata da Simone Spezia per chi si fosse messo all'ascolto adesso o da poco. Ci occupiamo di Libia. Buongiorno Marco Giaconi, direttore di ricerca del Centro Militare di Studi Strategici. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E di nuovo ben trovato, nostro ospite spesso quando parliamo di tutto questo. Allora, l'idea era di fare un punto naturalmente dal lato militare, perché quel che sta succedendo ancora una volta è che sembra che quel che ci hanno detto i ribelli la settimana scorsa in realtà non si stia verificando. Però prima la vorrei coinvolgere su un tema. Ieri sera il primo discorso del presidente del CNT, Mustafa Abdel Jalil, ha detto: l'Islam costituirà la principale fonte di diritto nella Libia del dopo Gheddafi. Insomma, viene da dire, lo dico molto brutalmente, alla faccia della primavera araba, insomma, forse si sperava di qualcosa di diverso. Lei cosa dice, Giaconi? La primavera araba, anche in Egitto, subito dopo la rivolta di Piazza Tahrir, c'è stata la richiesta di una modifica costituzionale che appunto modificasse l'articolo del testo che riferisce alla Sharia, che è la legge islamica, è la religione islamica, l'ordinamento dello Stato egiziano. Questa proposta di modifica costituzionale è stata rifiutata dal deliberato. Pensi che i vari partiti, numerosi partiti che sono sorti, sono regolarmente registrati. Giaconi, mi sembra, mi scusi se la disturbo, mi sembra che abbiamo un problema tecnico di audio. Adesso proviamo a richiamarla e a ritrovarla, insomma, a ritoccare il tema della Libia. Nel frattempo, così cambiamo argomento e veniamo sul calcio, ritorneremo su questo tema della Libia tra un attimo. Saluto Dario Ceccarelli della nostra redazione che ci ha raggiunto adesso in studio. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. E come potrete intuire, parliamo del big match di questa sera, parliamo di Milan, anzi Barça-Milan. Sì, la partita tanto attesa e soprattutto la partita, sì, delle due grandi squadre verso le quali guarda l'Europa. Il motivo principale di questo evento è sicuramente un'assenza più che una presenza, che è l'assenza di Ibrahimovic. Ricordiamolo, Ibrahimovic era stato al Barcellona e pur segnando diversi gol e pur facendo la sua parte di campione, però deluse in parte perché il suo rapporto con Guardiola non fu mai al massimo livello, per una questione di carattere, per il fatto che Ibrahimovic vuole tutta l'attenzione su di sé e al Barcellona ci sono tanti altri campioni che pretendono, senza a volte la sua arroganza, la stessa attenzione. Quindi un Milan che va a Barcellona senza la sua punta di diamante, però è un Milan che così metterà patto al suo posto e che tutto sommato, così, anche perché non è decisiva ai fini del proseguimento, quindi si può guardare con una certa tranquillità. Il problema semmai è che se Ibrahimovic resta fermo più tempo perché ha una lesione agli adduttori della coscia destra, a quel punto la trasferta con Napoli potrebbe complicarsi e il Milan ha bisogno di fare Il problema diventa il campionato. Allora io so che su queste cose è difficile quasi quanto con i mercati. Peter Bescapesca, romantico dall'altra parte del vetro, ci diceva prima: stasera ne prendiamo 5. Dacci... Sì, parecchi gufi volano attorno a questa partita. Di sicuro già l'assenza di Ibrahimovic, in precedenza poi Allegri non aveva convocato neppure Inzaghi, che come si sa è un rapace d'aria, proprio perché non sapeva come inserirlo neanche nella panchina, eccetera. Quindi è una partita, sì, partita con delle premesse un po' sinistre. Però diciamo la verità, in questo momento il Milan credo che sia più preoccupato del campionato, anche perché la Juve si è visto che va a tutto gas. Certo, l'Inter dà sempre delle soddisfazioni al Milan, ma questo è un altro discorso. Problema di stasera è soprattutto un problema di vetrina, di far vedere in Europa che il Milan può ancora alzare la voce. Ultimamente, insomma, in Europa l'Italia non è che... Esatto, e forse far vedere anche che è viva l'Italia. Bene, anche c'è anche una discreta metafora da questo lato. Grazie a Dario Ceccarelli per essere stato con noi. Buona giornata, Dario. Prima edizione. 6:46 minuti e 15 secondi, di nuovo con Marco Giaconi, direttore ricerca del Centro Militare Studi Strategici. Abbiamo pochi minuti, Giaconi, le voglio chiedere a questo punto di questa benedetta avanzata militare che c'è e che non c'è, nel senso che i ribelli ci avevano detto la città di Bani Walid, ci siamo, abbiamo trattato un ingresso pacifico, in realtà grande resistenza in particolare da parte di una tribù presente a Bani Walid. Beh, Bani Walid è la capitale, se così possiamo chiamarla, di Warfalla, che è la tribù maggiore dell'area libica, un milione di membri rispetto a un totale di 6 membri della popolazione. Quindi certamente questa difficoltà di entrata a Bani Walid deriva dal fatto che la tribù maggiore non è ancora certa del suo ruolo futuro dopo che il CNT avrà preso il potere definitivamente. È una trattativa in parte sugli affari e in parte anche sul potere relativo della tribù nel nuovo quadro libico dopo la caduta di Gheddafi. Infine, in pochi secondi, Sirte è ancora là, diciamo. Non c'è... Beh, Sirte è l'area di origine, di area di nascita di Muammar al-Gheddafi, è l'area della sua piccola tribù, la Kadhafia, ed è l'area nella quale, come dire, i membri di quella zona, di quella piccola tribù, sono stati tutti fortemente favoriti dal regime gheddafiano, quindi, come dire, difendono la loro pagnotta e il loro status sociale. Grazie a Marco Giaconi, a direttore ricerca del Centro Militare di Studi Strategici. Buona giornata. Buona giornata anche a lei, buongiorno. Ed eccoci con Alessandro Milan per le anticipazioni della rassegna stampa, per le cose che hai trovato sui giornali oggi, Alessandro. Buongiorno. Simone, eccoci qua. A parte le notizie principali, oggi sono un po' noiosi i giornali, si fa un po' fatica a trovare delle cose interessanti. Però tu sai che esiste un consulente alla regione Sicilia che ha questo ruolo, vediamo se riusciamo a capirlo, esperto nelle azioni di intervento in materia di pubblica istruzione, in particolare per l'affermazione nella popolazione studentesca di elementi costitutivi essenziali dell'identità siciliana. Insomma, il consulente alla sicilianità. E quanto c'è scritto, c'è scritto quanti quattrini in camera l'uomo? Sì, c'è scritto, è una donna. €100.000 l'anno, credo, di consulenze. Beh, insomma, sai, le consulenze servono così, insomma, centinaio di migliaia di euro per essere comunque consulente. La regione Sicilia in 2 anni, fa sapere Libero, questa è una storia, ha speso 8.031.000 euro in consulenze. Che non è niente male. Che è una delle voci interessanti. Altre storie? E poi le province, che si sa come l'araba fenice, l'avevamo detto, no? sono morte e pare siano già risorte. Il presidente della provincia di Treviso, Muraro, secondo la stampa, si è lasciato scappare questa cosa. Dice: guardate che non avete letto bene, perché c'è un comma, c'è sempre un comma, sì, in una legge, no? Un comma scritto evidentemente in carattere molto piccolo, che sul decreto di abolizione delle province, il disegno di legge costituzionale, che fa rinascere un ente intermedio tra comune e regione. È un'entità. Avevamo le province, adesso avremo le entità. Adesso si chiamerà entità. Grazie Alessandro Milan, ti ritroviamo tra poco naturalmente in 24 mattino. Un ringraziamento a Peter Bescape in regia, Alessandro Longoni in redazione, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.